saluto dopo sì lunga assenza. Il fiorente tuo suolo ripienta amor, io bacio. Recco il mio voto a te, recco il mio voto a te, col braccio e il cor. Premier. canto. Almost blue.